4D. Ascolta e rispondi. Che cosa facesti in quel fine settimana? Feci una traduzione. Che cosa facesti quel giorno? Feci un giro della città. Chi conoscesti alla festa? Conobbi dei personaggi famosi. Chi conoscesti alla festa? Conobbi il direttore della libreria. Che cosa chiedesti? Chiesi un favore. Che cosa chiedesti? Chiesi un'informazione.